Capitolo primo. Preparazione alla Santa Messa. La tradizione cristiana ha voluto cantare in innumerevoli modi la sua profonda gratitudine a Dio per il mistero d'amore e di fede che ci è stato donato nell'Eucaristia. Sono numerosissimi gli inni e i cantici eucaristici. Con parole di ardente pietà muovono i cuori a una maggior riverenza di fronte al sacrificio di Cristo e alla sua presenza reale nell'ostia santa. Tutti questi testi, Pange Lingua, O Sacrum Convivium, Panis Angelicus, O Salutaris Ostia, Adoro Te Devote, eccetera, per quanto intendano esprimere la massima lode che noi uomini possiamo elevare al cielo, non sono tuttavia in grado di dare pienamente conto dell'ineffabile bontà divina che si manifesta nella Santa Messa, né della realtà mirabile della presenza reale di Cristo sotto le specie eucaristiche. Benedetto XVI ricorda in un'omelia un breve racconto tratto dalla letteratura universale. Un sovrano volle sapere come è Dio e chiese ai sapienti e ai sacerdoti del suo regno che glielo facessero vedere. Come è logico, essi non furono in grado di appagare questo suo desiderio. Però un povero pastore propose una soluzione. Il re apprese da lui che i suoi occhi non erano sufficienti per vedere Dio. Il pastore però poteva almeno mostrargli che cosa Dio faceva. A tale scopo era prima necessario che si scambiassero i vestiti. Il sovrano acconsentì e consegnò i suoi vestiti regali al pastore mentre si faceva rivestire del semplice abito dell'uomo povero. Ed ecco allora arrivare alla risposta del pastore. Questo è ciò che Dio fa. Il Papa osserva, di fatto, il Figlio di Dio, Dio vero da Dio vero, ha lasciato il suo splendore divino, spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso fino alla morte di croce. Filippesi 2,6. Dio ha, come dicono i padri, compiuto il sacrum commercium, il sacro scambio. Ha assunto ciò che era nostro, affinché noi potessimo ricevere ciò che era suo, divenire simili a Dio. Tale partecipazione al dialogo con Dio stesso, che non è un essere lontano, deve destare una grande meraviglia nell'anima del cristiano. Il suo essere infinito non gli impedisce una vicinanza generosa e intima alla nostra anima. Un'amicizia con la quale, come affermava Sant'Agostino, non siamo noi a trasformare Lui nel nostro povero io, ma è Dio a identificarci con Lui. Quel grido santo, consummatum est, Giovanni 19,30, che ci ha aperto le porte del cielo, si rende presente in ogni santa messa con un'efficacia tale che l'ultima parola nella vita del cristiano non la dice né la morte fisica né la morte spirituale del peccato, ma la misericordia di Dio. Sul Calvario le tre persone divine agirono nella loro perfetta unione d'amore per il bene di tutta l'umanità. In ogni celebrazione dell'Eucaristia, piena attualizzazione del sacrificio della croce nello spazio e nel tempo, si realizza a nostro beneficio questo stesso intervento della Santissima Trinità. Uno scambio ammirabile. Questo ammirabile scambio cominciò per ogni cristiano nel battesimo, nel quale, come spiega San Paolo, tutti noi battezzati ci siamo rivestiti di Cristo. Galati 3,27. Egli ci dona i suoi vestiti e questi non sono una cosa esterna. Significa che entriamo in una comunione esistenziale con Lui, che il suo e il nostro essere confluiscono, si compenetrano a vicenda. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Così Paolo stesso, nella lettera ai Galati 2,20, descrive l'avvenimento del suo battesimo. Questa conformazione con Cristo, iniziata nel battesimo, diviene sempre più perfetta mediante la ricezione degli altri sacramenti, specialmente dell'Eucaristia. Essa esige, perché vi si possa totalmente partecipare, l'assenza del peccato grave nell'anima. Nell'unirci al suo sacrificio pasquale che si celebra sull'altare e nel ricevere la comunione, questa somiglianza con Gesù si fa più intensa e ci permette di chiamare ogni giorno in maniera più vera Dio Padre nostro. Nello spiegare tali misteri, Benedetto XVI insiste sul fatto che Cristo ha indossato i nostri vestiti, il dolore e la gioia dell'essere uomo, la fame, la sete, la stanchezza, le speranze e le delusioni, la paura della morte, tutte le nostre angustie fino alla morte. E ha dato a noi i suoi vestiti, ciò che nella lettera ai Galati espone come semplice fatto del battesimo, il dono del nuovo essere, Paolo ce lo presenta nella lettera agli Efesini come un compito permanente. Dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima. Dovete rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. Perciò bando alla menzogna. Dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Se vi adirate, non peccate. Efesini 4, 22, 26. La Santa Messa è altresì il sacramento dell'unità con gli uomini, i nostri fratelli. In quel momento santo, nel quale Cristo ci unì alla sua oblazione a Dio Padre, mosso dallo Spirito Santo, ci si offre la possibilità di vivere la richiesta che il Maestro rivolse al Padre nella sua orazione sacerdotale alla presenza dei primi dodici. Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te. Giovanni 17,21. Un uomo o una donna che vive la messa e che vive della messa, sapendosi figlio di Dio in Cristo, sperimenta necessariamente il peso grandioso della fraternità con l'umanità intera. Per partecipare con frutto al sacrificio eucaristico, si richiede che ci presentiamo davanti all'altare rivestiti dell'abito nuziale, al quale si riferisce il Signore nel Vangelo, Matteo 22, 11-14. Cioè, insistiamo di proposito su questo punto capitale, liberi dal peccato mortale, purificati meglio che possiamo dalle macchie dei peccati veniali e dalle mancanze che abbrutiscono la nostra anima. In questo senso ci può aiutare, e Benedetto XVI a proporlo nella sua omelia sopracitata, il commento di San Gregorio Magno alla parabola del banchetto di nozze riportata da San Matteo. Il re viene nella sala affollata per vedere i suoi ospiti, ed ecco che in questa moltitudine trova anche un ospite senza abito nuziale, che viene poi buttato fuori nelle tenebre. Allora Gregorio si domanda: ma che specie di abito è quello che gli mancava? Tutti coloro che sono riuniti nella chiesa hanno ricevuto l'abito nuovo del battesimo e della fede, altrimenti non sarebbero nella chiesa. Che cosa dunque manca ancora? Quale abito nuziale deve ancora essere aggiunto? San Gregorio stesso risponde: il vestito dell'amore. E purtroppo tra i suoi ospiti, ai quali aveva donato l'abito nuovo, la veste candida della rinascita, il re trova alcuni che non portano il vestito color porpora del duplice amore verso Dio e verso il prossimo. In quale condizione vogliamo accostarci alla festa del cielo se non indossiamo l'abito nuziale, cioè l'amore che solo può renderci belli? Si domanda Gregorio Magno. Una persona senza l'amore è buia dentro. Le tenebre esterne di cui parla il Vangelo sono solo il riflesso della cecità interna del cuore. Omelia 38, 8, 13. Ora che ci apprestiamo alla celebrazione della Santa Messa, conclude Benedetto XVI, dopo aver commentato le parole di San Gregorio Magno, dovremmo domandarci se portiamo questo abito dell'amore. Chiediamo al Signore di allontanare ogni ostilità dal nostro intimo, di toglierci ogni senso di autosufficienza e di rivestirci veramente con la veste dell'amore, affinché siamo persone luminose e non appartenenti alle tenebre. Tra le condizioni necessarie per trarre molto frutto dal sacrificio eucaristico, l'attuale Romano Pontefice segnala lo spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Non ci si può aspettare una partecipazione attiva alla liturgia eucaristica se ci si accosta ad essa superficialmente, senza prima interrogarsi sulla propria vita. Favoriscono tale disposizione interiore, per esempio, il raccoglimento e il silenzio, almeno qualche istante prima dell'inizio della liturgia, il digiuno e, quando necessario, la confessione sacramentale. Un cuore riconciliato con Dio abilita alla vera partecipazione. In particolare, occorre richiamare i fedeli al fatto che un'actuosa participazio ai santi misteri non può aversi se non si cerca al tempo stesso di prendere parte attivamente alla vita ecclesiale nella sua integralità, che comprende pure l'impegno missionario di portare l'amore di Cristo dentro la società. Anche l'impegno nell'apostolato, quindi, fa parte delle migliori disposizioni per ottenere frutto dalla messa. Esso è in stretta relazione con quell'esclamazione «Sizio» o «Sete», pronunciata da Cristo sulla croce, Giovanni 19,28, che egli stesso trasmette poi agli apostoli e attraverso di loro a tutti i cristiani con il mandato missionario: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura», Marco 16,15. Non si può amare il sacrificio dell'altare se nel cuore della donna cristiana, dell'uomo cristiano, non si coltiva un amore sincero per le anime, che deve tradursi o concretizzarsi con le persone che frequentiamo o nelle quali ci imbattiamo. Nel contemplare come il Signore sulla croce apre le braccia all'umanità intera, San José María osservava: «Non è possibile amare l'umanità intera, e noi vogliamo bere a tutte le anime, non allontaniamo da noi nessuno, se non dall'alto della croce». Proprio da quella croce che si innalza con pienezza di efficacia per i meriti infiniti di Cristo nella Santa Messa. Preparazione remota e preparazione ravvicinata. Per essere coerenti con la nostra condizione di battezzati in Cristo, è indispensabile entrare in un dialogo più profondo con la Trinità Beatissima, che continuamente ci viene incontro. Altrimenti impoveriremmo la vita cristiana, la ridurremmo al tempo materiale della durata della messa. Se il sacrificio del Calvario ci ha ridonato la vita, necessariamente dobbiamo cercare di far girare la nostra giornata, la nostra esistenza, intorno a quella Santa Croce che è vita e salvezza. È logico interrogarsi sull'impegno che mettiamo nel preparare la messa durante i minuti che precedono la celebrazione. Verifichiamo se ci sforziamo di giungere con sufficiente anticipo per un po' di preghiera personale prima che inizi il santo sacrificio. Se alimentiamo il desiderio di trovarci presenti sul Calvario, perché sull'altare si attualizza sacramentalmente lo stesso e unico sacrificio della redenzione. Oltre a questa preparazione immediata, è altresì molto opportuno aver cura della preparazione meno ravvicinata nelle ore che precedono la messa, con atti di fede, di speranza e d'amore, comunioni spirituali e giaculatorie di riparazione. San José María era solito dividere la giornata in due parti: la prima per ringraziare della messa che aveva celebrato, la seconda per disporsi a celebrare la messa del giorno seguente. Molte volte, nel rispondere alle domande che gli rivolgevano persone desiderose di accrescere il loro affetto per la Santa Eucaristia, apriva il suo cuore con semplicità. «Vuoi che ti dica che cosa fanno altre anime? Altre anime rendono grazie molte volte al giorno, perché hanno ricevuto il Signore, non soltanto nei 10 minutini che seguono la messa, ma durante tutta la giornata. Tu dormi profondamente, non è vero? Invece ci sono persone, anche persone giovani, che non dormono altrettanto profondamente. Capita loro di svegliarsi 4, 5 o 6 volte nel corso della notte, e intanto cominciano a prepararsi per la comunione che riceveranno il giorno successivo. Mi pare un buon sistema, un sistema eccellente per qualsiasi stato di vita, per chi è celibe, per chi è sposato, per chi è vedovo, per chi è sacerdote. Va bene per tutti. Perciò, se vuoi prepararti e ringraziare meglio, fa così anche tu». In un'altra occasione osservava: «Mi sforzo di far sì che l'ultimo pensiero di ogni giorno sia di ringraziamento al Signore per aver celebrato la Santa Messa quel giorno. Inoltre gli dico: Signore, ti rendo grazie perché per la tua misericordia spero di celebrarla ancora domani, rinnovando il sacrificio divino in persona Cristi e consacrando il tuo corpo e il tuo sangue. Così, mentre mi addormento, mi preparo. Tu puoi fare qualcosa di analogo». diceva anche: ti anticipo che con il tempo preparerai la Santa Messa a partire dal mezzogiorno del giorno precedente, perché fino a quel momento avrai ringraziato per la comunione e per la messa alla quale hai assistito la mattina. Tutta la tua giornata sarà una messa, perciò ti risulterà facile custodire la vista, non ascoltare certe conversazioni, mortificare gli altri sensi, disciplinare l'immaginazione. Tutto diventa più facile quando si mette la messa al centro della vita interiore. È una dolce esigenza soprannaturale e naturale per il cristiano lo sforzo di mantenersi con l'aiuto della grazia in questa amicizia divina e intima che il Signore ci offre. Da ciò sorge spontaneo l'impegno di allontanare da noi quanto ci allontana da Lui. Conviene davvero volgere gli occhi della mente ai primi cristiani, ammirare la loro gioia particolare nel partecipare al sacrificio eucaristico. Aspettavano, con una preparazione accurata, il giorno o il momento della celebrazione della messa, con una devozione che si andava sempre più rafforzando, persino in mezzo ad atroci persecuzioni. Fu molto espressiva la risposta di quel martire che non si tirò indietro davanti al pericolo di morte imminente, esclamando: Sine Dominico non possumus, cioè senza la celebrazione domenicale non possiamo vivere. Occorre quindi da parte nostra assimilare e coltivare questa considerazione. Una caratteristica molto importante dell'uomo apostolico, della donna apostolica, è amare la Santa Messa e concretamente renderci sempre meglio conto del fatto che la celebrazione domenicale sta al centro della vita della Chiesa.